Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Nella storia della musica, lo strumento più antico che sia mai stato usato dopo la voce, ovviamente, sono le percussioni. Fino dall'uomo delle caverne, l'uomo ha sempre avuto voglia di segnare il ritmo di quello che stava cantando con le percussioni, con suoni battendo inizialmente oggetti gli uni contro gli altri. Quindi in realtà, se io definisco un percussionista il più grande batterista di tutti i tempi, lo sto considerando anche una sorta di proto-musicista, cioè del musicista per eccellenza. Bene, oggi parliamo proprio di quello che per molti è considerato il miglior batterista della storia del rock, ed è sicuramente, male che vada, nel gruppo dei due o tre top. Tra l'altro, membro del più importante e influente gruppo hard rock di sempre, cioè dei Led Zeppelin. C'è un ascoltatore tra i tanti che abbiamo scelto che ci ha chiesto di raccontare la sua storia, ma questa è una di quelle storie veramente plebiscitarie, ce l'hanno chiesto veramente in tanti. Noi parliamo con Federico Bertollo. Ciao Federico. Ciao Enrico. Allora, non abbiamo ancora detto di chi si tratta, ma insomma abbiamo parlato di Led Zeppelin, quindi stiamo parlando di John Bonham. Cosa ti ha suggerito il fatto di venirci a chiedere John Bonham? Perché un po' di tempo fa avete fatto una puntata su Kate Moon, e dunque non poteva mancare John Bonham, estro sregolatezza e tecnica sopraffina. Quanti anni hai per capire? 42, quindi sei quindi fan dei Led Zeppelin, assolutamente, che sono arrivati, esatto. Scoperto da ragazzo, e hai scoperto questo motore. Sì, oltretutto sono appassionatissimo di batteria come strumento, e dunque Kate Moon e John Bonham sono le mie stelle polari, diciamo. Perfetto, ti ringrazio Federico, e grazie, buona a te, puntata. Enrico, grazie mille. John Bonham, tutti lo chiamavano Bonzo dal nome di un cane di un famoso cartone animato americano, ma lo hanno soprannominato poi God of Thunder, il dio del tuono, per la potenza, la tecnica, l'originalità con la quale suonava il suo strumento. E voglio farvi subito capire di cosa stiamo parlando facendovi ascoltare un attimo uno dei suoi più famosi assoli, tratto da Moby Dick, perché allora si facevano i dischi e nell'album c'era anche spesso la solo di batteria. Questo era Moby Dick. John Henry Bonham, Moby Dick. Molto estroso, aggressivo, potente, tecnico, e lui aveva stravolto per sempre e completamente il modo di concepire la batteria, le percussioni. Nei 9 album che compongono la discografia dei Led Zeppelin, dietro la batteria c'è sempre lui, e riesce a fondere il rock, l'hard rock, l'heavy metal. In tutti i sondaggi, nelle classifiche mondiali, da Rolling Stone Magazine a Rock List, è sempre stato giudicato il batterista migliore di tutti i tempi, o comunque sempre nel gruppo dei due o tre batteristi che hanno cambiato la storia di questo strumento. E questo nonostante la sua carriera purtroppo sia stata molto breve, solo 12 anni con i Led Zeppelin, perché il rapporto distruttivo di John Bonham con l'alcol lo ha portato a una fine tragica a soli 32 anni nel 1980. È un epilogo che ha lasciato tutti orfani, soprattutto il Zeppelin, che virtualmente si scioglieranno nel momento in cui muore John Bonham. Peraltro le uniche apparizioni che faranno i Led Zeppelin tanti anni dopo le faranno con Jason Bonham, grandissimo batterista, figlio appunto di John Bonham. Il mito dei Led Zeppelin, del dirigibile, però non è mai tramontato, anzi devo dire che si è più vivo che mai. John Bonham nasce a Redditch nel Worcestershire in Inghilterra il 31 maggio 1948. Con lui nasce la passione per la batteria, perché la prima volta che ne chiede una sua madre ha 5 anni, a 10 anni gli regalano il primo rullante, a 15 anni ha una drum kit della Premier Percussion, la grande marca di batterie usata da gente come Kate Moon, che abbiamo già citato, Ringo Starr, Phil Collins, e lui non prende lezioni, chiede solo consiglio a alcuni batteristi della sua città, suona in alcuni gruppi creati con gli amici di scuola. Nel 64, a 16 anni, inizia a lavorare con il padre che fa il falegname, però continua a suonare, e conosce anche la sua futura moglie Pat, dalla quale avrà giovanissimo due figli, Jason, di cui abbiamo parlato e parleremo, e Zoe. Il salto lo fa quando entra nella band Nicky James Movement and the Senators, che ha un discreto successo, e la cosa gli permette finalmente di diventare batterista a tempo pieno. Agli inizi ero interessato alle partiture musicali ed ero abbastanza bravo e veloce nella lettura. Ma quando cominciai a suonare con i gruppi, feci l'enorme sbaglio di abbandonare lo studio. Credo che sia fantastico essere capaci di scrivere le proprie idee in forma musicale, ma credo anche che nella batteria il feeling sia molto più importante della mera tecnica. Se fai troppa attenzione alla tecnica, finisce che suonerai come ogni altro batterista. Io invece credo che quello che conti veramente sia essere originale. Quando ascolto altri batteristi mi piace poter dire «Wow, carina questa cosa! Non l'avevo mai sentita prima!» E nel caso di John Bonham, di cose mai sentite prima, ce ne sono state veramente parecchie. Comunque nel 65, siamo arrivati al 65, entra a far parte di The Crawling King Snakes, un gruppo in cui il cantante è un certo Robert Plant, e i due diventano amici, si tengono in contatto anche quando il gruppo si scioglie. Nel 67 mette insieme un altro gruppo, di Band of Joy, ma chiama John Bonham, con il quale inizia una collaborazione molto proficua, perché entrambi amano il blues. Robert Plant è un vulcano, è un cantante straordinario, è molto richiesto, ha molte collaborazioni, e nel 68 viene contattato da un altro personaggio che non ha bisogno di presentazione, Jimmy Page, uno dei più grandi chitarristi del mondo, e Jimmy Page sta cercando un cantante per un nuovo gruppo. Eh sì, perché Jimmy Page ha rilevato i diritti di un mitico gruppo che sono gli Yardbirds, uno dei primi gruppi rock del Regno Unito, e negli Yardbirds hanno suonato chitarristi come Eric Clapton e Jeff Beck. Tra l'altro sono stati tutti assieme a Sanremo a cantare Puff Boom, gli Yardbirds, e sono stati eliminati, quindi saremo visto una leggenda senza neanche rendersene conto. Gli Yardbirds si sciolgono e hanno degli impegni contrattuali, devono fare una tournée in Scandinavia. Quindi Jimmy Page crea una nuova formazione che chiama New Yardbirds e tira dentro Robert Plant, che propone come batterista il suo amico John Bonham. A quel punto al basso, alle tastiere, arriva un signore che si chiama John Paul Jones, è un amico di Jimmy Page, e i quattro, a nome The New Yardbirds, completano il tour in Scandinavia. Al rientro però si rendono conto che devono trovare una loro strada, e questa sarebbe solo una replica di una band che ha già avuto successo, e devono scegliere il nome, e il nome sarà Led Zeppelin. Il falco e il gabbiano. Nell'ottobre del 1968, quattro tra i più grandi musicisti del mondo, il cantante Robert Plant, il chitarrista Jimmy Page, il batterista John Bonham, protagonista della nostra puntata, e il bassista e tastierista John Paul Jones, reduci da un tour in Scandinavia nel quale hanno usato ancora il nome Yardbirds, cioè hanno suonato come New Yardbirds, decidono di dare vita a una band vera e propria, e devono scegliere il nome. Si chiameranno Led Zeppelin, e sull'origine di questo nome ci sono molte versioni differenti. Questo è quello del giornalista Chris Welsh. Un giorno mi chiama Jimmy Page e viene in ufficio da me. Aveva da farmi un annuncio. Mi dice che intende mettere in piedi una band, gente con cui aveva già lavorato. Gli dico: come vi chiamate? Led Zeppelin. Io lo segno sul mio taccuino, ma sbaglio a scrivere. Scrivo Lead, cioè piombo, ma lui mi dice: no, L-E-D, Led. Mi ha dato anche lo scoop di questa nuova incredibile band. Il nome lo avevano scelto per via degli Who, perché c'è una storia che Keith Moon e John Entwistle volevano lasciare gli Who, volevano creare un supergruppo con in mezzo anche lui, Jimmy Page. They wanted to form a supergroup. I think Jimmy Page was involved in that actually. Il supergruppo non vedrà mai la luce, ma gli Who e i Led Zeppelin, Jimmy Page e compagnia bella rimarranno sempre molto amici. Ascoltate Richard Cole, il famigerato tour manager dei Led Zeppelin. We're all drunk, you know, as usual. Eravamo tutti ubriachi, come al solito. E loro dicevano, vogliamo lasciare gli Who, vogliamo fare una nuova band. Ma chi se ne uscì con quel nome fu John Entwistle, non Kid Moon. Deriva da un modo di dire inglese. Andrà giù come uno Zeppelin di piombo, che significa che sarà un fiasco. E il nome è praticamente un ossimoro, perché gioca sul concetto opposto di pesante e leggero, e richiama un po' il nome di un'altra band di successo, anche se più effimero, di quegli anni, gli Iron Butterfly, Farfalla di Ferro, quelli di Nagada Davida, gli Iron Butterfly. Insomma, il nome piace a tutti. La parola LED, piombo, viene cambiata in LED per evitare un'ambiguità di pronuncia. È un nome che contiene un augurio di fallimento, non può essere di miglior auspicio, è quella che noi chiamiamo la controufata. E il ricordo di questo nome, di questa prima parte dell'avventura, è di John Paul Jones, il bassista. La prima volta che ci siamo incontrati tutti e quattro fu per capire se potevamo anche solo stare insieme, se ci eravamo simpatici. Jimmy disse: cosa possiamo suonare? Facciamo un pezzo tipo... E Johnny iniziò a suonare la batteria. E accidenti, la stanza esplose. Allora ci guardammo tutti e... Sì, ci siamo. Funzionerà. E il primo album della band esce il 12 gennaio 1969. Già dalla copertina si intuisce che si tratta di qualcosa di particolare, di strepitoso. C'è la foto del Zeppelin LZ-29 Hindenburg in fiamme, la foto del famoso disastro avvenuto nel maggio del 37, un'immagine peraltro inedita, straordinaria, evocativa, intitolato semplicemente Led Zeppelin. È registrato agli Olympic Studios di Londra alla fine del 68, è una delle pietre miliari della storia del rock. Impone il gruppo sul mercato internazionale, soprattutto negli Stati Uniti. È heavy metal, è rock, è hard rock, è blues bianco, è una cosa nuova. Un album prodotto in appena 36 ore di lavoro costa ai produttori 1750 sterline, arriverà a incassare in pochi anni 7 milioni di dollari. E i Led Zeppelin sono una novità assoluta, è uno spartiacque nella musica rock. È un album, è una band che influenzeranno tutti i gruppi del loro tempo e quelli futuri. I quattro artisti sono veramente figli di un cambiamento storico epocale, perché si inseriscono perfettamente nella rivoluzione culturale degli anni 70. Ascoltate una analisi molto interessante fatta da Ray Coleman, che è un famoso critico musicale, tra l'altro è il biografo dei Beatles. Nell'ultimo anno c'è stata una rivoluzione nella musica pop con la morte del culto della personalità. I Led Zeppelin hanno ripreso da dove avevano lasciato i Beatles, perché oggi i giovani sono più interessati ai musicisti che a quello che ha mangiato Paul McCartney carne a colazione. La gente oggi guarda la scena musicale dei giovani emergenti e i Led Zeppelin sono degli ottimi musicisti, quindi le persone li preferiscono a un'immagine, come invece si faceva alcuni anni fa. Eh sì, e a questo si aggiunge un'osservazione molto acuta proprio di John Bonham, lucido. Intervistato nel 70, risponde così a chi gli chiede di spiegare lo stellare improvviso successo dei Led Zeppelin. Credo che stia cambiando. Il mondo cambia perché sono diversi i ragazzi. E così cambia anche la musica. Il pubblico, io lo chiamo così perché ci viene a vedere ogni tipo di gente. Non solo i ragazzi, il pubblico viene a sentire cosa suoni, non a vedere come sei. Voglio dire, mi ricordo che con i Beatles andavi a vederli, non a sentirli. Li volevi guardare, non importava cosa stavi ascoltando. E questo è meraviglioso, arriva prima della involuzione che è arrivata invece negli ultimi anni nella musica mondiale e direi soprattutto italiana. Comunque, in quegli anni cambia il concetto di musica di rockstar, perché non si parla di forma ma di contenuti. E certo, l'immagine conta, i Led Zeppelin sono delle star, Jimmy Page ha un look straordinario, si vestono in maniera eccentrica, fanno cose pazze, entrano con le automobili nelle piscine degli alberghi, gettano i televisori dalle terrazze, fanno tutto quello che va fatto, che andava fatto tra le rockstar di quegli anni. Però dal punto di vista musicale stiamo parlando di persone che hanno trasformato radicalmente il mondo del rock. Intanto vengono catapultati in questo mondo fatto di ricchezza, di successi, di eccessi, e questo ovviamente crea delle difficoltà che abbiamo raccontato mille volte e tante volte ancora le racconteremo. E John Bonham, rispetto ai suoi compagni, è quello che accusa di più il colpo di una vita lontana da casa. Lui, che era un ragazzone tranquillo della campagna inglese, che si meritava il soprannome di Bonzo, è quello che in qualche modo fa più fatica a assorbire il colpo. Deve stare lontano dalla moglie, dai figli, insomma questo gli crea un vero e proprio shock che è destinato ad avere ripercussioni tragiche, e lo vedremo tra poco. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia del dio del tuono, The God of Thunder, John Bonham, forse il miglior batterista della storia del rock. Stiamo raccontando la storia di un gigante buono che diventa irascibile, che fatica a reggere il ritmo della celebrità incredibile che i Led Zeppelin raggiungono praticamente in pochi mesi, e che diventa, proprio per assorbire le fatiche e lo shock da successo, diventa succubo dell'alcol. Eppure rimane per tutta la sua vita un batterista straordinario, innovatore, e peraltro all'interno di uno dei più influenti gruppi hard rock, forse del più influente gruppo hard rock di sempre, anche se faccio fatica a catalogare i Led Zeppelin. Siamo arrivati nel nostro racconto al 1970, è l'anno in cui i Led Zeppelin sono la band per eccellenza. Il successo è straordinario, dopo il primo album esce il secondo, che si chiama Led Zeppelin 2, The Brown Bomber, il bombardiere marrone, perché la copertina è marrone ed è dominata dall'immagine dello Zeppelin sul fondo, e questo album rimane in cima alle classifiche americane per anni. E poi c'è un album particolare, Led Zeppelin 3, grandissimo riscontro di vendite, la critica è perplessa perché è un album versatile, ha molti brani blues, viene giudicato un infiacchimento della band, e invece è un album mistico, molto bello, con grandi canzoni, e i componenti vengono toccati da queste critiche, si mettono subito all'opera e danno vita quasi immediatamente alle Zeppelin 4, che viene riconosciuto come il capolavoro del gruppo, contiene le loro canzoni più famose, Black Dog, The Battle of Evermore, ma soprattutto Stairway to Heaven, il loro inno personale. Anche questo album non ha un titolo, si chiama Led Zeppelin IV, ma la Atlantic Record chiede che il gruppo inventi qualcosa, che trovi un modo per personalizzare questo disco. Così i quattro scelgono quattro simboli che li rappresentino, e Page realizza un misterioso glifo che alcuni ritengono assomigliare al simbolo alchemico dell'ambra, preso dall'alfabeto magico del matematico alchimista Girolamo Cardano. Sembra la scritta ZOSO, Page l'ha smentito più volte. Quello di Plant è una piuma racchiusa in un cerchio. Jones sceglie il carattere runico, tre ovali che si intersecano in un cerchio. John Bonham opta per un carattere runico, tre cerchi che si intersecano. Questa scelta rientra nelle voci in qualche modo alimentate dagli stessi Led Zeppelin, voci che circolavano attorno al gruppo già dopo l'uscita del terzo album, voci che li vorrebbero vicini a tematiche di tipo esoterico, magico, addirittura anche satanico. E questo è un tema tipico dei nuovi gruppi heavy metal, basti pensare ai Black Sabbath di Ozzy Osbourne, spesso accusati di satanismo, accuse sulle quali queste band hanno anche giocato per creare un alone di mistero. Però è È indubbio che soprattutto Jimmy Page sia un amante del genere, un appassionato studioso di esoteristi. Page è fissato con Aleister Crowley, che è un esoterista fondatore del moderno occultismo, e acquista addirittura la sua casa Boleskine House, che è situata sulle rive del lago di Loch Ness in Scozia, quello del mostro. E alcune canzoni di Led Zeppelin, se ascoltate al contrario, si dice che recitino frasi inneggianti a Satana. Ci sono tutti gli ingredienti, insomma, per far parlare di sé, ma quello che ci interessa per capire lo stato d'animo di John Bonham è la scelta del suo simbolo. I tre cerchi collegati rappresentano la trilogia uomo, donna, figlio, un tema che per Bonham è un continuo tormento. La lontananza dai suoi lo fa soffrire enormemente. Lui affoga questa sofferenza nell'alcol. Quando è ubriaco cambia personalità, si guadagna il soprannome di The Beast, la bestia. Ascoltate il ricordo di Pamela Desbars, la supergruppi a cui abbiamo dedicato una puntata. In quel momento lei era fidanzata di Jimmy Page. Bonzo aveva una doppia personalità, quando beveva e quando non beveva. Era un grosso orsacchiotto. Era quello che pativa di più quel tipo di vita. Voleva stare a casa con la moglie e i figli. Insomma, l'uomo che chiamato Bonzo, che è tranquillo, è un ragazzo di campagna, grande padre, straordinario marito, quando beve diventa una belva e i Led Zeppelin diventano il terrore degli albergatori, ma sono gli stessi componenti della band che lo temono e iniziano a prendere un'abitudine particolare, prenotano negli alberghi un certo numero di stanze in più, delle quali Bonham non è a conoscenza, e vanno a rifugiarsi in attesa che la sbronza gli passi. Insomma, una specie di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, lui al centro di serate allucinanti che coinvolgono tutti i membri della band, che si concludono regolarmente con risse, orge, alberghi devastati, locali sfasciati, e intanto i Led Zeppelin però proseguono, devono proseguire sempre lontani da casa, e il cammino è un cammino di grande successo. Pubblicano alla fine 9 album che arriveranno a vendere 300 milioni di copie, un record spaventoso, e le loro tournée in giro per il mondo sono degli eventi storici, sono i primi a riempire gli stadi, il Zeppelin, ricordiamocelo. Ma arriviamo al settembre del 1980. Il gruppo deve partire per gli Stati Uniti, i quattro stanno provando. Il 25 settembre però John Bonham si presenta alle prove completamente ubriaco, non è in grado di suonare, va avanti a bere tutto il giorno, tutta la sera, durante una festa organizzata a casa di Jimmy Page, e lui è completamente disfatto e si addormenta su un divano. Gli altri lo mettono in una stanza da letto a dormire, e da quella stanza lui non uscirà più vivo. Viene trovato morto la mattina dopo, soffocato dal suo stesso vomito. Aveva solamente 32 anni. John Bonham found dead in bed yesterday in London at the home of the group's guitarist, Jimmy Page. British newspapers said today that Bonham had a reputation for excessive drinking. So, as we say, cause of death still a mystery. Further tests, though, will be made next week. E i Led Zeppelin accusano il colpo in una maniera assolutamente superiore a quella di tutte le altre band, che via via perdono almeno un elemento portato via dall'alcol e dalla droga, e che invece decidono che the show, che lo spettacolo deve andare avanti. Addirittura ci sono molte band che cambiano anche il cantante muore, questi vanno avanti come se nulla fosse. Bene, il 4 dicembre i Led Zeppelin pongono fine alla propria attività con questo comunicato stampa. Desideriamo rendere noto che la perdita del nostro caro amico e il profondo senso di rispetto che nutriamo per la sua famiglia ci hanno portato a decidere, in piena armonia tra di noi e il nostro manager, che non possiamo più continuare come eravamo. Chapeau, impossibile continuare come eravamo, così dicono Plant, Page e Jones senza Bonham. I Led Zeppelin finiscono qui, e i giornalisti parlano di evaporazione, e la band si scioglie perché è impossibile mettere qualcun altro al posto di John Bonham. Gli altri componenti proseguono nella loro carriera da solisti, ci saranno alcune reunion, ma per un motivo ben preciso, perché nel frattempo il figlio adorato di John Bonham, quello per il quale lui si ubriacava perché era dall'altra parte dell'oceano, è diventato un batterista eccezionale. Al posto di John Bonham può suonare solo lui, Jason Bonham. I started to play drums Ho iniziato a suonare la batteria a 4 o 5 anni. Papà mi metteva un disco e io ci suonavo sopra. Mi svegliava di notte e mi chiedeva di suonare per i suoi amici. Allora io scendevo in pigiama e suonavo. All'inizio non ho preso la musica seriamente. Da ragazzo volevo correre in bicicletta ed ero bravo. Sono arrivato secondo ai campionati nazionali. Avevo anche uno sponsor. È stata la sua morte che mi ha fatto cambiare idea. Ho appeso il caschetto e ho preso le bacchette. Mi sono detto, porto avanti il nome di famiglia. E lo porta avanti veramente bene. Ascoltate, se non ci credete, c'è un concerto bellissimo, quello che chiude un po' l'epopea dei Led Zeppelin, con Jason Bonham alla batteria, stesso DNA del padre anche nel modo di suonare. Tra l'altro c'è questo concerto che entra nel Guinness dei primati, perché i Led Zeppelin annunciano online la possibilità di acquistare i biglietti dell'evento. In 48 ore si arriva a 20 milioni di richieste per un posto, mi sembra tipo da 16.000 di capienza. Jason Bonham non è soltanto l'unico erede di suo padre, perché tutti i batteristi però prendono ispirazione da lui. Io, per parlare di John Bonham e soprattutto dello strumento batteria, ho chiamato uno che di batteria se ne intende, uno dei più grandi batteristi italiani, anche benché giovanissimo, ha suonato con tutti i più forti e adesso con molto piacere annuncio il fatto che sarà anche con noi sul palco quest'anno. Sto parlando del grande Phil Mehr. Buongiorno Phil. Buongiorno Enrico, mamma mia che presentazione pazzesca. È dovuta, anche se adesso ci immergiamo nella leggenda, perché io sto raccontando la storia di John Bonham. Tu, che sei un batterista anomalo, perché ti sai destreggiare veramente tra mille generi e ogni volta suoni jazz come se avessi suonato solo jazz, e suoni rock come se avessi fatto sempre solo rock, e quindi parlando di rock, John Bonham è veramente un caposaldo. Che importanza ha avuto secondo te nel panorama musicale? Ma se noi chiediamo a qualunque batterista rock quale sia stato il batterista che tu l'ha influenzato, chiunque ci dirà Bonham, perché diciamo che Bonham è stato unico proprio perché ha segnato una strada, ha indicato una strada che poi tutti i batteristi rock hanno percorso, principalmente per due motivi. Il primo, per il suono. Sì, è certo. Il suono di Bonham è un suono che tutt'oggi noi cerchiamo di imitare in studio. Infatti spesso dicono al batterista, ma qui ci sarebbe bene un suono rullante alla Bonham, la cassa alla Bonham, perché è un suono massiccio, grosso, solido, imponente, quindi che è proprio alla base di un arrangiamento rock molto forte, molto vigoroso. Poi Bonham ha creato dei groove sì. che tuttora sono quello di Immigrant Song. Esatto, poi ci sono anche delle accortezze tecniche nell'uso del pedale della cassa che lui ha sviluppato e che sono materia di studio per ogni batterista. Però insomma c'è un'altra cosa importante da dire secondo me, perché prima io ti ringrazio per il complimento che mi hai fatto, cioè dici che passo dal jazz al rock. Posso dirti che Bonham, benché sia stato sicuramente un batterista rock, uno di quelli massicci che picchiava molto forte, era nell'approccio forse quello più jazz di tutti, perché certo. Aveva la capacità di trasmettere il feeling. Sì, certo. Cosa succede? Che spesso noi quando ascoltiamo un batterista rock lo sentiamo preciso, lo sentiamo solido, potente, però quasi fosse una drum machine, cioè molto preciso, quasi asettico. Ecco, invece Bonham aveva questa capacità, e questa capacità era condivisa con i grandi batteristi jazz, invece certo. di interpretare il tempo, quindi di darci la sensazione che le note che lui stava suonando le dava espressione, non era soltanto accompagnamento, quindi aveva un feeling particolare che ritroviamo soltanto nei grandi batteristi jazz oppure anche funk R&B dell'epoca. Infatti in questo era unico. Certo. Senti, l'ultima domanda, Phil, quanto è importante trovare il bassista della propria vita in una band, cioè quanto è importante la coppia basso-batteria. In questo caso abbiamo parlato di John Paul Jones, che peraltro era anche un grande tastierista. Ma non fare nomi, tu hai suonato con grandi bassisti, quindi non ti voglio mettere, però insomma... Diciamo che parlo proprio della mia esperienza personale, quindi è una cosa molto soggettiva. A me piace molto suonare con bassisti diversi. Sì. Cioè non sento l'esigenza, quando suono con un bassista, raramente, quasi mai sento l'esigenza di dire però qui suonerei meglio con l'altro bassista, amico mio, con cui mi sono trovato bene. Cioè è talmente bello, parlando chiaramente di gente che suona bene, certo, con cui ci si trova bene, anche adattarsi un po' al modo di suonare dell'altro compagno di ritmica. Io quindi credo che ogni ritmica sia speciale perché diventa una miscela unica, però io non sceglierei un bassista solo per suonare in tutte le situazioni. Ogni situazione ha un bassista ideale, e quindi anche a me piace adattarmi in base all'altro collega ritmico, che è il basso. Filmer, ti ringrazio, noi ci vediamo sul palco, e quindi un abbraccio, grazie per avermi aiutato nel mio percorso su John Bonham. Grazie a te per avermi coinvolto, ci vediamo prestissimo. Ci sono storie di persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala, hanno volato in alto, hanno lasciato un segno, storie di chi ha tentato, è caduto ed è risalito, oppure storie di chi non è stato in grado di abbinare al suo enorme talento la capacità di vivere seriamente la sua nuova condizione di rockstar. È per esempio il caso di John Bonham. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete a ilfalcoilgabbiano@radio24.it, oppure al nostro sito radio24.it, oppure venite a cercare sui miei social, Facebook, Twitter, o sui nostri social, insomma, se volete, lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani.